Buongiorno ragazzacci, siete fantastici, non saprei vivere senza Manera ormai e nemmeno senza te, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E allora eccoci qui per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan in diretta con voi finale 11 con la nostra squadra divisa ma unita: Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli. Lorenzo Nespoli in fibrillazione per Milan-Juve di stasera. Dai, dai che andiamo a recuperare. Va bene, finiamola qui, dai, che siamo patetici. C'è Luca Cremonese con noi a fianco al nostro Alpino in regia. Voi ci siete al 349-238-6666, potete dircelo con i vostri WhatsApp, soprattutto in audio, così noi li mandiamo in onda, ma anche i vostri iscritti, i vostri contributi. Chiamateci invece all'800-24-0024, perché abbiamo tante tematiche di cui parlare. Parliamo di scuola, con una notizia che non trovate incredibilmente sui giornali, però sarà il nostro punto di partenza. Avremo tante altre tematiche, ma da qui partiamo. Ah no, c'è prima questo famoso salvo intese. Vabbè, ma ho visto che il professore, ho sentito il professor Sabino Cassese, l'avrete sentito poco fa con Simone Spezia e Maria Latella, perfetto nell'analisi di quello che vuol dire il salvo intese. Lui d'altronde è stato ministro e quindi lo sa anche bene, ma io per farvelo capire ulteriormente devo leggere e devo partire da un brano di uno dei libri sui quali vi ho tormentato molto e che mi ha molto colpito. Ma vai Alpino, vai. Enthusiasm about the future, 'cause I'm a sad, sad post teen, could have been the love machine, no dream. Ci chiedono di chiamare Adinolfi per un pronostico su Milan-Juve, che non lo faremo secondo voi, magari più avanti. Ecco, ma il gufo per chi è Alpino? Beh, essendo tu un fratello rossonero lo sappiamo per chi è il... Lo faremo, chiameremo Adinolfi. Ma appunto, il salvo intese. È stato approvato tutto il decreto semplificazioni salvo intese nella notte, eh? Cosa significa questa formula salvo intese? L'ha spiegato poco fa il professor Sabino Cassese, cioè spesso è una formula nella quale si annida un provvedimento semivuoto nel quale non c'è accordo quasi su niente, allora si mette salvo intese. Ma io ho questo libro di cui ho molto parlato, abbiamo parlato anche con l'autore, uno dei due autori. L'autore vero in realtà è un capo di gabinetto di un ministro, in anonimo, ha firmato questo libro Io sono il potere insieme al giornalista Giuseppe Salvaggiulo della Stampa, e a pagina 179 questo funzionario anonimo di vari ministeri scrive bene e descrive che cosa voglia dire il salvo intese. Eccolo qua: il traffico di Roma è tentacolare, ma non quanto la stesura di un decreto legge, scrive il funzionario anonimo. La realtà è che il Consiglio dei Ministri approva un testo grezzo, scritto coi piedi. Talvolta nemmeno quello, un titolo, uno slogan, ma questo non si può dire. E allora si mette la foglia di fico dell'approvazione salvo intese. La clausola salvo intese nasce come raffinatezza politica a fronte di un provvedimento su cui c'è consenso su tutto tranne che su una questione, per esempio 15 articoli condivisi, uno no, ma politicamente rilevante, un nodo che non si riesce a sciogliere nel Consiglio dei Ministri. La prima opzione sarebbe interrompere la discussione, rinviare, con il rischio di dover ripartire da zero. Invece l'approvazione salvo intese consente di incassare i 15 articoli rimettendo l'accordo sul 16° a un tavolo separato e soprattutto evitando di tornare in Consiglio dei Ministri. Riservato originariamente a casi limitati e di forte impatto per i partiti di maggioranza, il salvo intese è diventato il rifugio comodo per i politici del terzo millennio, abituati ad annunciare provvedimenti prima che siano pronti, non sopportano lo smacco comunicativo del rinvio. Ormai si usa per decreti che sono ancora work in progress, è un modo per bypassare il Consiglio dei Ministri. Si fa votare un foglio bianco e poi si lavora sotto traccia per riempirlo. Avete capito cos'è il salvo intese? che succede? Ma avete la faccia come il culo. Ah! Ma chi? È partito un premio Giachetti dalla regia. Così, è partito un premio Giachetti. Questo, se abbiamo capito bene, è salvo intese. E quando poco fa il professor Cassese, alla domanda, ma adesso ci sarà la conferenza stampa? Ma no, ma ha detto, ma la conferenza stampa sarà la serie di dichiarazioni, abbiamo fatto, abbiamo sburocratizzato, sia chiaro, lo fanno tutti, come scrive nel libro Io sono il potere, Renzi era il mago in questo, siccome aveva annunciato un mese una riforma al mese, diceva proprio in Consiglio dei Ministri datemi solo i titoli ai ministri e poi andava in conferenza stampa e si approvavano le cose salvo intese, che vuol dire fogli bianchi, però da comunicare bene al pubblico, cioè ai cittadini, e poi i fogli bianchi in qualche modo si riempiranno. Parliamo di scuola, visto che oggi il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini racconta che ci saranno i test sierologici a docenti e bidelli e in 15 giorni verranno fatti 2 milioni di esami. Perché in 15 giorni? Perché verranno fatti, questo è l'annuncio, 15 giorni prima dell'inizio della scuola, per vedere se bidelli, docenti siano sani dal punto di vista del coronavirus. Io insomma voglio vedere 2 milioni di esami in 15 giorni, per carità, sto alla porta e spero che accada. Quello che non trovate sui giornali, incredibilmente, è una notizia che ieri era diffusa su tutti i siti, e cioè questa: l'Italia, secondo l'Istat, è tra i paesi più ignoranti d'Europa. Vi cito due dati. Nell'Unione Europea il 78% degli adulti ha un diploma secondario superiore, 78%. In Italia la percentuale scende al 62%, siamo tra i peggiori, i penultimi. E un qualsiasi diploma, invece anche di terza media, in Italia il 75% ce l'ha, l'Unione Europea la media sale però all'84%. E questa notizia sui giornali non esiste, un trafiletto, mi sono detto oibò inizialmente, poi forse mi sono detto ma forse non c'è sui giornali perché non è una notizia. Lo chiedo conferma o smentita al professor Massimo Cacciari, che saluto e ringrazio di essere qui in diretta con noi. Buongiorno professor Cacciari. Buongiorno. Lei l'avrebbe pubblicata questa notizia? Sono un po' in giro. L'avrebbe pubblicata questa notizia? Sì, probabilmente la ragione è quella che diceva lei, sono dati scranocchi. Da decenni siamo in ritardo rispetto all'Europa su tutti gli indicatori fondamentali, a partire dal numero dei laureati, che è il più basso tra i giovani da noi rispetto ad ogni altro paese europeo, credo proprio a tutti gli altri paesi europei, Grecia, Spagna, Portogallo compresi. Quindi sono dati stravecchi, stranoti, insomma, non c'è niente da stupirsi. D'altra parte, insomma, che la scuola sia il fanalino di coda nelle preoccupazioni dei governi che si sono succeduti almeno da 30 anni a questa parte è altrettanto noto. Basta vedere i finanziamenti, basta vedere le risorse, basta vedere come sono trattati i professori, che ormai sono quelli peggio pagati d'Europa. Anche questo è un dato interessante, forse meno noto degli altri che ha citato. Cioè che i professori italiani sono quelli meno pagati di tutta Europa, e non perché lavorino di meno, lavorano anche magari di più, perché con i carichi burocratici che si trovano sono forse quelli più impegnati rispetto agli altri colleghi europei. Secondo lei un paese che non studia e che non forma generazioni con lauree e diplomi? È perduto, molto semplicemente è perduto, perché è chiaro che soprattutto un paese come il nostro, che non ha risorse naturali a differenza della Russia, a differenza dei paesi che non ha risorse naturali o forma quello che malissimamente si dice capitale umano, è perduto, è evidente, cioè non c'è alternativa. Cioè, o uno ha delle cognizioni, delle conoscenze, o deve avere delle risorse. O anche a proposito delle altre cose che dicevate, non solo occorre formare appunto le persone perché possano inventarsi anche il loro lavoro in una situazione così complessa come l'attuale, come nel mondo contemporaneo, in cui certamente lavori ripetitivi, lavori manuali, lavori meccanici saranno sempre di meno, Quindi non solo occorre educare l'intelligenza, perché soltanto attraverso l'intelligenza potrai trovare in futuro e darti un futuro, un lavoro, ma anche un paese che si deve sburocratizzare, perché è una contraddizione in termini, un paese innovativo, un paese che cresce nel proprio capitale umano, eccetera, è un paese ingessato da burocrazie, da meccanismi centralistico-burocratici, gerarchici, pazzeschi come quelli che abbiamo noi e che hanno dato una prova lampante di sé durante tutta la gestione di questa emergenza, che è stata tutta gestita nei peggiori termini centralistico-burocratici e gerarchici. Sa che su questo top bottom in tutte le occasioni e dovunque. Sai che su questo tema, cioè non mettere l'agenda nel primo punto dell'agenda la scuola, molti ascoltatori quando ne parliamo tirano fuori delle teorie semi-complottistiche, cioè a dire un popolo che non è istruito può essere maggiormente controllato. Ma lei davvero può pensare? Ma può pensare che sia proprio questo? A pensarci male, non credo che ci sia nessun complotto e nessun disegno. Anche perché non ne sarebbero capaci, quindi non è quello il punto. È che sono inerzie, sono meccanismi inerziali, come quelli appunto che per cui la scuola è l'ultima ruota del carro. In tutti gli altri paesi si è ripartiti dalla scuola e da noi no, e da noi i controlli, i super controlli, perché non li fanno anche nelle fabbriche allora? Perché non le fanno anche altrove? Perché la scuola non è un business, no, è chiaro, le fabbriche devono ripartire, magari il calcio pure, ma la scuola chi se ne frega? Siamo così, ma sono meccanismi inerziali, non è ma che siamo così solo in Italia, cioè in Francia non è così, nel Regno Unito non è così, perché certo. Noi siamo così, da dove nasce questo? Perché è l'ultima ruota del carro, perché non è un business, perché abbiamo una classe politica, una classe dirigente in generale, che non ha ancora afferrato bene che la scuola è centrale, che i processi formativi sono centrali anche per sopravvivere economicamente. E cosa le devo dire? Sono cose stranote, ma se non cambia, non cambia, non c'è niente da fare. C'è un dato, non dico positivo, però l'abbandono scolastico che era al 35,1% nel 94, ora è al 13,5%. Siamo sempre dietro rispetto all'Europa, almeno 3 punti percentuali rispetto al resto dell'Europa. Però quantomeno stiamo recuperando questo gap. Al sud è un disastro, ci sono due Italie, al nord l'abbandono scolastico non è così ampio, al sud ci sono due Italie dovunque ormai, no? un'Italia è divisa in due o in tre, non c'è niente da fare, cioè dal punto di vista dei numeri è divisa, lascia stare poi la retorica sull'unità nazionale, le differenze tra le diverse Italie si sono moltiplicate negli ultimi anni a differenza di quello che tutti auspicavamo e di tutte le chiacchiere che sono state fatte a proposito. Io la lascio su questo, essendo lei un filosofo, io ho battagliato molto sulla questione del TSO per chi è malato di coronavirus, visto che lei è stato anche sindaco, è in capo al sindaco la firma del TSO. Per me è un qualcosa di troppo, insomma, di limitativo della libertà. Ci sono le leggi che dicono ti becchi fino a 3 anni se non rispetti le ordinanze. Ora fare anche il TSO, cioè, mi sembra un po' esagerato, però vorrei una sua riflessione da filosofo, da ex sindaco. Cosa ne pensa? Lei avrebbe mai firmato un TSO per uno che si rifiuta di curarsi se è malato di coronavirus? Credo che sia del tutto incostituzionale, francamente. Credo che sia del tutto incostituzionale, perché appunto io l'accesso alla cura è libero, io posso fare a meno di curarmi. Certo, però i TSO esistono i TSO esistono laddove la persona ha manifestato evidentissimi segni di poter ledere e danneggiare altri. È difficile stabilirlo laddove io non so che la persona è malata. Cioè il TSO scatta quando sono evidentissimi segni che la persona è in grado di offendere gravemente. In questo caso altri. Però questo imprenditore vicentino era positivo e si è rifiutato. Era positivo, di un ricovero. La cosa Forse può cambiare, certo. Può cambiare, certo. Ma se viene uno da me e mi dice adesso tu ti faccio il TSO, se non eccetera eccetera, credo, qui bisognerebbe chiedere ad un giurista, sì, ma credo che la cosa sia assolutamente incostituzionale. No, ma infatti devo dire che anche il presidente del Veneto Zai ha detto al momento non ci sono gli elementi proprio giuridici per basare, per giustificare un TSO, ma pare che siano allo studio di alcuni esperti, anche al Ministero della Salute, per capire se ci sono gli strumenti giuridici per giustificare il TSO nel caso si parla di questo imprenditore vicentino. Professor Cacciari, noi la ringraziamo molto. Massimo Cacciari, con lei abbiamo iniziato per parlare di scuola, come siamo in ritardo. È un punto sul quale, intanto faccio questa associazione. Anche il prossimo ospite è un ex sindaco. Da ex sindaco a ex sindaco, da Massimo Cacciari a Gabriele Albertini, da Venezia a Milano. Buongiorno Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Buongiorno direttore, preferisco sindaco emerito, è un po' più nobilitante. No, però non mi chiami lei direttore, perché sennò poi i direttori si arrabbiano. Non subito, magari è un auspicio allora. Vabbè, allora comunque dirigi questa trasmissione, quindi non ha del tutto sbagliato. Ti dico, in qualche modo sì, grazie. No, da ex sindaco avevamo Massimo Cacciari, l'ha sentito in coda, ma lo chiedo anche a lei, l'abbiamo chiamata per la questione notoria della statua di Montanelli, però visto che è stato sindaco anche lei, lo chiedo anche a lei, l'avrebbe firmato un TSO, ha sentito del caso del imprenditore? Quanti TSO ho firmato nella mia vita di sindaco, però guardi, in questo caso credo che sia non giuridicamente spendibile questa procedura, perché il trattamento sanitario obbligatorio, come dice l'acronimo, si applica alle persone che sono, diciamo, non compos eorum, cioè a chi non è in grado di svolgere le sue autonomamente, diciamo, le sue scelte. Quindi però mi dicono malati psichici, sì. Mi dicono, ed è vero, che vale per esempio per i malati di tubercolosi, cioè la TSO, il provvedimento per chi ha la tubercolosi, questo io non lo sapevo, l'ho saputo ieri. Ma in qualche caso, diciamo da infettivologo, cioè il caso della tubercolosi clamoroso, insomma il Novecento è stato segnato da queste epidemie, proprio di questa patologia. Persino la centrale del latte è nata, quella pubblica, contro il TBC, per le farmacie comunali, chiedo scusa, per far avere il chinino e anche la centrale del latte per evitare la TBC dalla trasmissione per via gestione. Certo. In quei casi la conclamata gravità forse lo consentiva, ma in questo come non è ancora riconosciuta, credo, questa pandemia nelle stesse condizioni di gravità, nel senso della mortalità delle altre grandi tragedie tipo peste, colera, eccetera. Ah, è per questo lei dice. Io credo, cioè è una regione, cioè è rischiosa, ma non è mortale, so, al 50%, come era per la peste del Manzoni, insomma, di quella quando morì quasi la metà della popolazione di Milano, dal 46 al 54%, dicono gli storici. Però Albertini, noi l'abbiamo chiamata per questa storia della statua. Sa che noi abbiamo avuto anche l'artista ospite che ha posto un fantoccio. No, abbiamo avuto l'artista che ha posto il fantoccio di bimba sulla statua di Montanelli. Allora non lo definirei un artista, lo definirei è una donna. Non lo definirei un artista. Non so neanche come si chiama e non voglio saperlo. Ha fatto una provocazione. Che è un coreografo mancato, ecco, diciamo così, ha voluto diventare famoso facendo una scemenza, però questa è la mia opinione. Una scemenza definisce. Ma senta, ma questo accanimento contro le statue, visto anche Colombo, cioè, anche Cristoforo Colombo si può abbattere come Saddam Hussein, mi ha fatto molto impressione questo paragone Colombo come Saddam Hussein. È un paragone secondo me irriverente, soprattutto per Cristoforo Colombo, perché Cristoforo Colombo, diciamo, ha scoperto il nuovo mondo, ha allargato i confini della nostra conoscenza, cioè un altro pezzo di civiltà si è allargato, si è concepito per la sua scoperta. Nel caso dei dittatori che in una fase successiva della storia vengono allontanati, diciamo, dal monumentum, cioè dall'immagine che li ricorda, è ben diverso lo scenario, cioè è una questione di ripulsa verso un periodo, un protagonista di un regime, come nel caso di Saddam, ma può essere anche per Hitler o Mussolini o Stalin o altri, come peraltro è successo. In questo caso certo. È ben altra la situazione, è come rifiutare la storia. Allora si può, qualcuno terrapiattista potrebbe, non so, cancellare i monumenti a Galileo o a Copernico, perché oppure a erigerne uno a Tolomeo, perché aveva immaginato la cosmologia diversa da quella della realtà scientifica. Però senta, ma quando lei ha deciso di fare una statua a Montanelli, questa vicenda si sapeva già, cioè è questa la questione? È lontanissima nel tempo, a parte che risale al 36, ma lo stesso intro ne aveva parlato anche recentemente, anzi credo che addirittura ci sia sicuramente c'è, perché l'ho letto in questi giorni, una stanza con cui lui risponde a una giovane diciottenne che si chiama Rossella, Rossella Locatelli esattamente, diciamo intorno agli anni 2000, in cui racconta la sua vicenda e spiega tutto quello che è accaduto. Sa cosa dicono molti? Che non ha mai chiesto scusa, cioè non ha preso le distanze dicendo ho fatto un errore, ma ripensandoci è stata... Sono d'accordo con lui, perché assolutamente io rifiuto il fatto che molti anche sostenitori, ammiratori di Montanelli hanno detto, compreso il sindaco di Milano in carica, che hanno detto ah sì, grande giornalista, grande personalità, uomo di grande valore, valori, però doveva, insomma, questa è una cosa. No, io dico che ha fatto il meglio che poteva fare nella situazione. L'alternativa per un giovane ufficiale di 25 anni, certo, in una guerra coloniale, allora possiamo criticare l'aspetto storico in cui si trovava, aveva due alternative, o lo stupro o la prostituzione, oppure quello che ha fatto lui, peraltro su mandato del suo comandante di battaglione, con tutta una procedura che spiega benissimo nella stanza a cui faccio riferimento. Poteva anche non fare niente, sindaco, cioè poteva... poteva condannarsi alla castità, sì, con gli ormoni di un ufficiale ariano puro, con gli occhi azzurri e i capelli biondi di 25 anni, molto agognato da tutte le giovani del posto, si avrebbe potuto fare anche questo, ma nessuno penso che si sarebbe assoggettato a una disciplina così rigorosa, se non un mistico e non un militare. Quindi. Lei dice va bene tutto, ma la castità in quel caso non era credo che, non era... potesse rientrare nelle caratteristiche della funzione che svolgeva e anche della sua personalità. Le donne le sono sempre piaciute in tutto il resto della sua vita, figurarsi a 25 anni. Sì. Quindi insomma questa statua lei non capisce né gli imbrattamenti né le proteste né nulla. No, allora, per quanto riguarda gli imbrattamenti e i fatti del genere, insomma sono comunque dei reati, perché un danneggiamento c'è stato. Per quanto riguarda quell'altra manifestazione a cui accennava lei, ripeto, non la chiamerei artista, appoggiarci un fantoccio sopra non ha danneggiato nulla, però insomma è un'opinione, a mio modo di vedere, espressa male. Se poi si vuole discutere sul fatto che 100 anni fa, in quel luogo e in quelle condizioni, qualcosa di disdicevole si stava facendo dal punto di vista della civiltà occidentale. Ma lei dice dal punto di vista storico, però sindaco aveva 12 anni. Ma dal punto di vista personale no. Anche se aveva 12 anni questa bambina, cioè capisce? Pare che ne avesse 14, comunque non cambia molto, 12-14, in quel territorio, in quel paese, in quegli anni, una donna che aveva, diciamo, l'inizio della sua attività dal punto di vista femminile, quindi aveva, diciamo, le prime mestruazioni, era considerata idonea al matrimonio, e quindi morendo intorno ai 30-40 anni, la vita media era quella, 12 anni, 14 anni era considerato un'età da matrimonio, ed erano spose, bambine, certo, ma che in quella civiltà, in quel territorio e in quel luogo, in quel tempo, erano considerate alla stregua di una ventenne di oggi. Va bene. Sindaco, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Beh, certamente il dibattito, come immaginate, è ripartito. Credo fosse 12 anni, l'età giusta, adesso 12, cambia un pochino, certo, 12-14, forse se recuperiamo l'intervista nella quale Montanelli, quando fu incalzato molto da Elvira Banotti, lui credo che lo dica, la dica l'età di questa bambina. Andiamo a sentire un attimo la pubblicità, poi arriva con noi Leonardo Manera. Si è scatenato ovviamente il dibattito, molti su WhatsApp anche un po' arrabbiati per queste dichiarazioni. Vai. 1, nessuno, 100 Milan. Ma è chiaro che la scuola viene messa in secondo piano, i risultati non sono mai immediati, quindi investire sulla scuola, il risultato si vedrà dopo molti anni e magari quel politico in quel momento non ci sarà più. Quindi per non perdere il consenso elettorale lui finanzierà, si rivolgerà ad altri contesti dove la visibilità è maggiore. La scuola non dà subito visibilità al politico che la favorisce. Milano serviva l'Istat per sapere che l'Italia è piena di ignoranti. Vieni un giorno in un centro commerciale, vieni a farmi compagnia e ti renderai conto. Oggi Manera ci sarà? Salvo intese, sempre salvo intese. Sì, salvo intese, salvo intese. Leonardo ci sarà? Leonardo? Buongiorno direttore, buongiorno direttore. No, ho sentito che Albertini ti chiamava direttore. Albertini, si chiama delle cose che hanno suscitato. Allora, devo dire una cosa: molti si sono arrabbiati, sai su cosa? Sulla definizione, perché ha detto Montanelli ariano. Ma allora, su questo posso essere certo che Gabriele Albertini ha voluto contestualizzare, nel senso che nel 1935, sotto il fascismo, guerra in Abissinia, evidentemente chi andava sotto l'influenza del fascismo si sentiva il bianco ariano in quella visione distorta. Non è che Albertini crede che esista la razza ariana superiore, no? Quindi si è immedesimato nella situazione dicendo lui bianco ariano occhi azzurri, figurarsi se doveva rimanere casto. Certo, poi Leonardo insomma, poi, secondo me, ha detto delle cose, dal mio punto di vista, abbastanza incredibili, però va bene, ognuno ha le proprie opinioni, secondo me. Ma devo dire anche molti ascoltatori sicuramente criticano questa, appunto, l'idea di dire all'epoca si faceva così, 12 anni o 14 anni, ma credo 12 fosse l'età giusta. Se aveva il ciclo poteva essere data in matrimonio. Vabbè, ma questo dibattito non finirà mai, eh. Tu, Leonardo, come stai? La tua zucchina, soprattutto. Allora, io voglio ringraziare l'amico comico Francesco Rizzuto, che abbiamo anche avuto ospite a Uno Nessuno 100.000, sì, perché ha dedicato un video a tutti i vari stati della mia zucchina. Io l'ho messo adesso sul mio Facebook. Che bello. E si vedeva questa zucchina quando era più in forma, quando era più arzilla, e si vede anche adesso che sta andando verso la terza età delle zucchine. E adesso pensavo, sì, di far, prima di darle una degna sepoltura, pensavo di fare uscire la zucchina a visitare il mondo, per vedere il mondo che c'è fuori dal frigorifero. Quindi la zucchina sul lavello, la zucchina sull'asse del water, la zucchina a guardare la TV. Ecco, volevo farle conoscere, sai come si fa a volte nella vita, prima di morire si va a fare il viaggio della vita. Io vorrei fare il viaggio della vita alla mia zucchina, prima dentro casa e poi magari fino al Bar Jimmy. Questa è l'avventura che vorrei far vivere, cioè la mia andrà zucchina. A morire al Bar Jimmy. Tra l'altro ieri l'ho vista col crapino proprio ripiegato che pencolava e appoggiava sul bordo del frigorifero. Ma secondo me è la zucchina con la sua forza interiore che tiene sul frigorifero, non viceversa. Ma no, questo può essere, salino. Comunque io vedo che le farò una iniezione di Gero Vital, come si usava una volta. Ti ricordi che una volta c'era il Gero Vital per gli anziani? Il Gero Vital, ecco. Come no? Io farò il Gero Zucchina. Il Giro Zucchina. Allora, adesso, caro Leonardo Manera, l'abbiamo fatto soprattutto per te, devo dire, lo abbiamo richiamato. Torna con noi, è il sindaco della tua località preferita. Tu hai detto che meriteresti la cittadinanza onoraria di questo sì. paese. Lo puoi annunciare tu, allora, il sindaco di? Signore e signori, rullo di tamburi, sta per arrivare il sindaco di Masone! Che ha un nome, cognome, Enrico Piccardo. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Come va a code intanto oggi? Facciamo il bollettino code che lei sappia lì in Liguria. Mezz'oretta fa sono transitato davanti al pannello dell'autostrada all'uscita, segnalavano 11 km di coda in direzione di Arenzano. 11 chilometri. Perché lei è transitato in autostrada? Si perché voleva fare del male? Io abito proprio sopra la Galleria Liberté, sopra il castello. Quindi tengo ecco. sotto controllo tutti i casini che scoppiano. Cioè, 11 chilometri, ragazzi, sono le 9:40, non è un giorno in cui uno va al mare, nel senso non è weekend, è martedì. Per i lavori verso Arenzano che bloccano tutto. Masone da questo punto di vista ha beneficiato come flussi turistici, cioè la gente dice no, non vado ad Arenzano, a Varazze, a Cogoleto, ma mi fermo lì a Masone. Benefici, numerosissimi visitatori hanno bloccato in autostrada, quindi impossibilità di scendere o spendere qualcosa a Masone. Non escono comunque a Masone. Non escono, niente. Non escono. No, il problema comunque... L'ho già segnalato tante volte, non si può tenere prigionieri per ore e ore le persone in autostrada. Abbiamo tante strade parallele, comunali, statali, provinciali, corrono vicino all'autostrada in alcuni punti, si devono mettere delle vie di fuga dall'autostrada. Quella delle è vie, ma le vie di fuga quelle bisogna mettere poi i caselli, perché non è che uno può... No, ma ogni via di fuga... Tu, caro autostrada... Ogni via di fuga... No, uno come fa? Non paga? Fai dei casini del genere, la gente esce e non paga, punto e basta. Ah, ecco, ecco. Io lei stesso dice l'anno scorso... Non possiamo tenere prigionieri le persone per un euro di pedaggio, sì. Ma scherziamo. Io stesso l'anno scorso c'era coda, sono uscito a Ovada e poi sono sbucato verso Albisola, facendo però tutta la parte appenninica, è un bel viaggetto, insomma... Sì. Sassello scendendo giù. Sì, da comunque Giova. È un viaggio abbastanza lungo. Tra l'altro ci sono pochi distributori e ho rischiato di rimanere a secco. Quindi bisognerebbe anche mettere qualche distributore. Sì, uno, un Sassello e basta. Comunque il sindaco di Masone ci fa questa proposta interessante. Cioè, se sono imbottigliati in autostrada, vie di fuga e non si paga. Per questo io ho detto ci vorrebbero i caselli e lei mi ha detto no, vie di fuga e uno esce. Certo, ma sa, poi le... Non è colpa dell'utente, è colpa del questo gestore. È diverso il caso di un incidente, ma anche in quel caso, se la durata di trappola dura un certo tempo che dobbiamo stabilire, che si stabilisce, si devono aprire quei passaggi. Fine. Non senta, ma io non mi voglio neanche non mi voglio neanche addentrare. Ci faccia capire agli ascoltatori, cioè come mai così tante code, cioè ci sono così tanti cantieri e ristringimenti per cui si creano tutte queste code. Sono tantissimi in tanti punti, quasi tutti c'è una corsia unica con passaggio da una carreggiata all'altra, quindi molti bypass. Molte chicane lungo l'autostrada, chiaramente sì. Anche col traffico pesante questo rallenta tantissimo. Poi ma ha capito perché tutti insieme in questo momento? Cioè si è capito perché tutti insieme? No, questo non l'ho capito nemmeno io, perché se tutte le autostrade italiane sono mal prese come questa, penso che non faccia eccezione queste autostrade qui, non capisco perché abbiamo focalizzato i problemi solo sulla Liguria. Ma non è un po' la conseguenza di quello che è successo al Ponte Morandi, che dopo si sono cominciati a fare più controlli e si è visto che c'era bisogno di più manutenzione? Può anche essere un rimbalzo psicologico di questo tema qui. Però c'è anche l'autostrada che va all'Aquila, da Roma, ci sono tante malprese. Solo qui dobbiamo comprimere i cantieri in poco tempo e i controlli in poco tempo. Ora, il ministro, in un videocollegamento, mi sembra martedì scorso, Sì, ha detto che risolverà la questione, la devi chiedere, ministro. Dovrebbe darci garantite due corsie per il senso di marcia, per carreggiata, dal 10 luglio, dalle 6 alle 22, con chiusura dalle 22 alle 6 per controlli e lavori. Però quella sì, almeno la mantengono in informazione certa e la gente si regola. Però se hai delle chiusure estemporanee, perché trovi un ammaloramento durante un controllo notturno e blocchi l'autostrada perché non ti fidi di quello che hai visto, vuoi metterci il naso meglio oppure fare un intervento, la gente non ne sa niente. No, ma soprattutto ci interessa la sua proposta, però sindaco, io devo andare appunto al traffico, devo chiudere, ma gliela diamo sta cittadinanza onoraria Manera o no? Non è, anzi, quando non solo non è obbligato, tu? Anzi, potrebbe dire assolutamente no con grande sdegno, non c'è nessun problema da parte mia. No. Tutta la gente che si presta per, non solo per Masona, per la valle, per i piccoli paesi, tanto ricappello e tappeto rosso. Mi ha fatto grande pubblicità qui in questa trasmissione. Come pietisce una cittadinanza onoraria, come pietisce. Ho parlato spesso di Masone, quasi sempre in termini negativi, male. Ma si sa che la pubblicità va bene tout court, sia positiva che negativa. Bene o male, purché se ne parli. Vieni su, ti faccio fare un giro per Masone e ti faccio vedere i posti più reconditi e più graditi per la vista, per il panorama, per tutto. Allora, sindaco, verrà, c'è il famoso labirinto, di Masone. Il mio numero ce l'hai, quando vuoi mi fai una telefonata. Andiamo a mangiare un boccone da qualche parte, però facciamolo venire quando ci sono tanti lavori nei cantieri, che così ci mette 12 ore da Milano a Masone e arriva già bello allegro, di buon umore. Va bene, sindaco, okay. Salutiamo Enrico Piccardo, sindaco di Masone. Adesso, cioè, il labirinto di Masone lo chiediamo a Sfida Luchetti, il labirinto di Masone, celeberrimo. Ma traffico. Salta sulla tua nuova Alfa Romeo e vai. Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Per te nasce l'Easy Smiles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Alfa Romeo Stelvio da 399 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi. Fino al 31 luglio, info su alfaromeo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Le affermazioni di Albertini sono semplicemente vergognose, fanno vomitare. Dire che è una situazione di un fatto disdicevole è veramente inaccettabile. Ma che cazzo di discorsi sono? 12, 14? Ma sei una bambina, ma voi siete pazzi, siete malati nella testa, anche tu Mila. Milan, non lo difendere, ma quale contestualizzare? Non c'è giustificazione, è una vergogna. Ci siamo? Eccoci qua, va bene, la gente si è arrabbiata. Allora, ma cos'è che stavi dicendo, Leonardo, prima? Niente, te lo sei dimenticato. No, tu non ricordo più, non ricordo più niente. Vabbè, la mia memoria Sfida Luchetti, a perdere non lei. Si sa nulla, non si sa nulla del labirinto di Masone. Controlli meglio. Vabbè, prego. La signorina Luchetti. Allora, prima anche con Massimo Cacciari si è parlato del rapporto Istat e secondo l'ultimo rapporto Istat nel 2020 e nel 2021 in Italia nasceranno ancora meno figli. C'è, sì, voglia di famiglia, ma c'è paura o almeno preoccupazione per quanto riguarda i figli, soprattutto per motivi economici. Io ho un figlio che ormai ha 11 anni e ricordo quando sono andato a controllare il test di gravidanza prima che nascesse. È uno dei momenti che mi è rimasto più impresso nella vita, almeno quanto Italia-Brasile ai mondiali dell'82 e quando ho dovuto chiamare il soccorso ACI perché in autostrada ero rimasto senza benzina. Scherzi a parte, quando ho visto il test di gravidanza positivo, ho avuto la netta sensazione che da lì in avanti la mia vita sarebbe cambiata per sempre e mi dovevo preparare a essere padre, mentre d'altra parte la futura madre avrebbe dovuto prepararsi a essere madre. In questo però il genere femminile è un po' più aiutato perché vede dei cambiamenti tangibili nel corpo, vale a dire la pancia che cresce e contiene il nascituro. Invece il corpo del padre resta sostanzialmente uguale a prima, a meno che fin dai primi mesi il padre non si lasci andare con birre e birrette che producono lo stesso effetto apparente della gravidanza. Ma poi la differenza vera la scopri quando il bimbo nasce e ti consegnano in mano quel fagottino tutto rosso, di solito i bambini appena nati sono così, e ti rendi conto che devi essere responsabile per lui. In verità il padre non lo scopre subito, ci vogliono alcuni mesi prima che se ne renda conto, e non hanno importanza le notti insonne o la pappa che a volte anche il padre cerca di far deglutire al pargolo, spesso con scarsi risultati. I primi mesi obiettivamente per i padri sono drammatici perché il padre percepisce che qualcosa è cambiato, ma non è ancora completamente nella parte. Quando amici e parenti vengono in visita, tutte le attenzioni sono per la madre e il figlio, mentre il padre è relegato a un ruolo minore, spesso quello di portare da bere e casomai andare in panetteria a comprare qualche salatino da offrire ai parenti. E di solito anche il bimbo quando cresce, la prima parola che dice è mamma, poi altre come pappa, cane, bau bau, televisione, PlayStation, telefono, videochiamata, Super Mario e infine forse papà. Poi però poco alla volta, non si sa come, anche il padre trova un proprio ruolo, e non solo nel cercare di sgravare la madre dalle prevedibili difficoltà familiari. Il ruolo che spesso trova il padre per il figlio è quello di un compagno di giochi affidabile. Prima obiettivamente compagno di giochi noiosissimi, tipo far andare una macchinina avanti e indietro fino allo sfinimento, oppure esultare per essere riusciti a fare un puzzle di tre pezzi, oppure ancora passarsi la palla con le mani per ore fingendo che sia un gioco davvero spassoso. Ma poi anche cose più pratiche, per esempio nel mio caso insegnare a mio figlio a nuotare, insegnargli delle parole nuove, scherzare per strada e correre per vedere chi arriva primo alla porta di casa. Finché un bel giorno, senza averlo immaginato e deciso prima, senti che tuo figlio, ancora piccolo, magari piccolissimo, ti dà la mano, però in modo diverso da prima, in quel suo nuovo modo di darti la mano, è come se ci fosse sottinteso: tu sei mio padre e io mi fido di te. Ecco, quello credo sia uno dei giorni più belli, sia stato uno dei giorni più belli della mia vita, di quelli che vale la pena di ricordare per sempre. Non importa se poi tuo figlio sarà più impegnativo della tigre nella vita di P, ma quel dare la mano, quel affidarsi a te, può dare un senso alla vita, sempre che se ne faccia buon uso. Insomma, fare figli è complicato, è difficile, è anche molto costoso, ma in fondo resta ancora una delle esperienze principali della vita e, dal mio punto di vista, una di quelle che ti avvicina di più, ancora oggi, alla felicità. La tigre di P. Vorrei sottolineare questa cosa, caro Leonardo. Allora, Miriam Lucchetti, è colpa mia, è in radio oggi, ma è su altre trasmissioni. Ma il labirinto Amazone, tu hai detto? Il labirinto Amazone. Sì, labirinto di Amazone. Il labirinto dell'Amazone sarebbe più corretto, che è un parco culturale con sì. un labirinto in bambù, solo che è a Fontanellato in provincia di Parma. Area, su strada, sì, certo, Amazone, quello che ho detto io, esatto. No, sei veramente un cialtrone. Stavi chiedendo al sindaco di Masone se davvero esista il labirinto di Masone, che poi è il labirinto dell'Amazone, che però è a sì, Fontanellato. È la strada che Fontanellato porta in provincia. Sì, ma è lì in zona, sì. Fontanellato, c'è l'area di servizio, Fontanellato la conosco, mi sono fermato più volte. Cioè, ma tu sei in quell'età in cui senti una cosa e mischi tutto, non hai più contezza di dove è, no, che cosa. Io cosa, non sono cosa, mai stato al labirinto dell'Amazone. Sai com'è andata questa cosa? Perché lo cercavi Amazone e non lo trovavi? No, ho visto che qualcuno ha pubblicato le foto, ho detto non sapevo che Amazone ci fosse il labirinto. Amazone è pieno di attrazioni. Vabbè, comunque, meno male che non l'hai chiesto al sindaco. Dai, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Uno, nessuno, 100 Milan. io proporrei una bella statua masone di Leonardo Manera con scritto: giusto, dopo 15 ore di lunga coda è arrivato qui Leonardo Manera con la sua zucchina andata male. Il labirinto di Masone o dell'Amazone, un'altra toppata incredibile di Manera, incredibile, è in provincia di Parma, quindi proprio fuori luogo. Fuori luogo in tutti i sensi, fuori luogo, fuori luogo l'uscita, classica, fuori luogo. No, era una domanda trabocchetto. Buon appetito. Grazie. Era una domanda trabocchetto. No, la zucchina la voglio far vivere ancora un po'. Saranno ben fatti i miei, cosa mangiando. No, adesso dici, scusa, noi siamo tutti invidiosi. Prima regola, non si mangia mai in onda, che poi tossisci, ti viene il ranteghino. Sto mangiando un pezzo di pancake. Sai cos'è il pancake? Urca! Certo che so cos'è il pancake, scusa, perché è buonissimo. C'è lo sciroppo d'acero? Li divoro io i pancake, li adoro tantissimo. Con lo sciroppo d'acero? Cioè, ma ti sei fatto un pancake tu? A casa ti sei fatto un pancake. Ma chi se ne frega! Ma dai, ma non ci credo nemmeno, ma tutto, non so, ma figurati se. Ma figurati se ti sei fatto un pancake a casa. No, no, no, non. Guarda che tutto è possibile, tutto è possibile. Sì, sì, sì. Non sono le 10. Solo vive l'uomo. 9 minuti e la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Ma sai che noi siamo in diretta questa settimana, poi la prossima settimana fino al 17, è poi le dirette. Ah, c'è ancora un altro con questo entusiasmo. È l'ultima, siamo quasi alla fine. No, la sì, prossima. Dai. Cioè, tra l'altro, la gente non andrà in ferie e noi andremo in vacanza 6 settimane. Però non dovete prendervela con noi, dobbiamo smaltire le ferie arretrate per quel che mi riguarda. Insomma, l'azienda, coronavirus, sapete queste cose qua, no? E quindi, vabbè. Però stasera, signori, c'è una partita importantissima. C'è un Milan in grande forma. Senti, ma vogliamo, caro Luca Cremonese, per favore fammi una chiamatina al nostro Marione Adinolfi, juventino de Roma, de testaccio, dai, fammi una chiamatina, sentiamo se suona, che io godo sempre a sentire i pronostici di Marione Adinolfi. Suona, già questa è una buona notizia. Vediamo un po' che succede. Marione, se risponde. Marione? Oi! Come stai? Grazie comunque, quello 0-3 è stato bellissimo. Grazie, sperato. Quei regali che ti arrivano, sei bambino, sì, che non ce la faranno mai a farci quel regalo. Invece arriva quel regalo. Ma per bilanciare anche oggi replicheremo 3-0. Ma come no? Anche ma è quello succede, zitti, ma lo sanno tutti. Tutti quanti. Guarda, sui bookmaker ce la danno sicura. 3-0 per il Milan. Sì, sì, sì, 3-0. Vabbè, adesso sentiremo il tuo pronostico. No. Il pronostico è uno solo, è ovvio. Sì, segna il capitano del Milan. Oggi segna il capitano. Il grande capitano. E chi sarebbe? Leonardo Bonucci. Ecco. Gol! Zuccata del capitano rossonero. Pensavo che solo una squadra veramente senza radici e dignità può dare la fascia di capitano all'ultimo che arriva. Sei veramente un cialtrone. Quindi segna Bonucci e poi su questa ragione. No, ha torto sulla squadra senza dignità e sei veramente un cialtrone. Il capitano Leonardo Bonucci. Sarà un momento molto divertente. Sul fatto che abbiamo dato la fascia di capitano a Bonucci, effettivamente è stata una sciagura. Sai che questa ilarità e questa protervia di solito non viene mai premiata. Mamma poi mia, alla luce dei fatti. È vero, guarda, la stasera guardavo Leonardo Manera a Comedy Central, veramente ipnotizzato. E ho detto, dovrei riuscire a essere come lui. Faceva uno stand-up comedy proprio bello, proprio limpido, senza protervia proprio. Senza arroganza, senza superbia. Senza quel dato del comico, e ho pensato, è proprio milanista, non si vede che ha passato anni faticoso, insomma. Senti un po', milanista, io ti voglio far sentire, chiedo all'Alpino che non sa nulla di questo in regia, l'inno del Milan, quello il migliore del mondo, di Emi Schilla. Ce l'hai. No, ma attenzione, ma tu non sai cosa è successo. Ma intanto sentilo. Ma tu non sai cosa è successo. Eccolo qua, l'inno abbastanza orrendo di Emi Schilla sul Milan. Milan. Alla radio. Eccolo qua. Sì, lo commentammo molte volte io e sì, sì, sì. Allora è successo questo. È successo questo che Boban ha criticato, sì. Boban ha criticato l'inno, l'inno di Emi Schilla. E qualcuno sui social ha chiesto a Emi Schilla cosa ne pensi di Boban che ha criticato. Ora io chiedo scusa agli ascoltatori, ma devo ripetere quello che ha scritto Emi Schilla sui social. Cosa dico? Che me la suca sta faccia di merda. Antipatico. Un poeta come autore dell'inno. Emi Schilla, che poi evidentemente è andato avanti in una serie di tweet, ha detto: per essere chiari, io non subisco il fascino dei calciatori, che, ti, che no, tu sia Pinco Pallino o Cristiano Ronaldo, se mi rompi il beep gratuitamente non sai nulla. Ma finisce tutta questa vicenda che si sveglia il giorno dopo Emi Schilla e scrive: scusate, ieri ero ciucco e quando bevo esagero sempre. E non era solo alcol, caro Emi Schilla. No, no, fai bravo, fai bravo. Vabbè, ma ce lo fai il pronostico? Ce lo fai il pronostico? Dai, io penso sarà una vittoria facile. 3-1 perché ho Ibrahimovic al fantacalcio, quindi servirebbe un gol di Ibra. E poi dilaga la Juve. Insomma, dai. Dilaga la Juve. Uno Bonucci, penso, abbiamo capito? Uno Bonucci, possibilmente a rompere il ghiaccio, come si dice, insomma, no? Tante la scampata tra amici a San Siro questa. Poi Ronaldo è Quadrato, a me la scampa tutta, evidentemente. Allora, io voglio invece però dire questa cosa, lo faccio in chiusura perché Marione lo chiamiamo sempre, ci fa piacere, ma ha scritto un libro, attenzione, momento serio, prima fino adesso ha pazziato. Ha scritto un libro che si intitola Il grido dei penultimi. I penultimi sono gli italiani in difficoltà, se ho capito bene, no? Tutti quelli, sì, che perdono il lavoro. È una storia dell'Italia negli anni del Covid, perché secondo me sono gli anni del Covid, non sarà una cosa di mesi, e lo strascico economico sarà pesantissimo, durissimo, rischia di essere anche uno strascico esistenziale per molti. Ho voluto fare questo racconto che è partito da una conversazione con il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, una persona che nel mondo cattolico ha una sensibilità diversa dalla mia. Lui è il cardinale degli ultimi, il cardinale di Sant'Egidio, per capirci, insomma. Io ho chiesto al cardinale un po' di attenzione a quella vastissima fascia ormai di italiani che rischia davvero di non farcela, i baristi che non hanno più clienti qui a Roma. È impressionante, io vivo al centro e l'azzeramento del turismo significa una valanga di imprese familiari che finiscono sul lastrico. Noi abbiamo fatto gli investimenti un po' strani, il governo ha deciso di dare tutto in cassa integrazione, ma quel pulviscolo produttivo che è quando arriva, che è composto, come sanno bene gli ascoltatori di questa radio, da milioni di piccole e piccolissime imprese, botteghe artigiane, molto spesso condotte da familiari, da fratelli, da genitori con figli, quelli stanno veramente, veramente in grande difficoltà. Questo, tra l'altro, ma perché sono i penultimi? Quando uno dice sono i penultimi, perché non si stende la rete per loro, mentre si stende una rete che è anche, come dire, solidale. Ho voluto usare inevitabilmente un tasto polemico, sai che i miei scritti non sono mai neutrali, ma insomma gli ultimi hanno, come dire, l'attenzione delle reti sociali, per cui sei immigrato, sei rom, hai quel filtro in più. Che appunto ieri la grande manifestazione dei neri con il leader sindacale nero, il Black Lives Matter addirittura, che vede i conduttori inginocchiarsi. Io ho scritto il libro il giorno in cui ho chiuso il libro, diciamo, il giorno in cui ho letto un trafiletto in una pagina di un giornale locale che raccontava che in una settimana in provincia di Teramo si erano suicidate 4 persone, una ragazza di 33 anni, un papà di famiglia di 55, un signore di 63 e un ragazzo di 27 a cui per il Covid non era stato rinnovato il contratto a termine. Sì, tu dici quello, queste persone non sono protette in nessun modo. No, ma poi oltretutto è una riga in cronaca, capisci? La sola provincia di Teramo in una settimana, una riga in cronaca. E in quello stesso giorno ho visto una conduttrice inginocchiata per George Floyd. Ho detto, qui c'è qualcosa che funziona poco nella riflessione del nostro paese, perché quello che ci sta per scaricarsi addosso, in particolare da settembre in poi, sarà veramente difficile da gestire. Però e non fare quello che odi anche tu, cioè il benaltrismo. Cioè uno può inginocchiarsi per George Floyd e occuparsi anche del barista, no? non lo so, io vedo questo paese molto legato alle mode correnti. Abbiamo appena parlato dei social, ridendone, no? Però lo sai che sì, sui social si avvampa rispetto a un tema, e io per esempio mi chiedo perché non ci si inginocchia per i 3 milioni di cittadini di Hong Kong trattati molto molto molto peggio purtroppo dal regime cinese rispetto agli afroamericani. Yellow lives don't matter, capito? Ho questa sensazione che scattano delle mode, sulle mode si agganciano delle riflessioni collettive, e tutto sì, un po' ciò è così, che non è moda così resta fuori. Ma non è un'intuizione un mia, è una no, no, ma è la capacità anche di comunicare. Quando è moda, certo. È una riflessione che si fa in Italia da molto tempo. Penso che questo paese abbia questo rischio, questo vizio. Perché guarda bene che Black Lives Matter, vista dall'ottica dello statunitense, tu sai che io vivo un po' di mesi a Las Vegas, è un'ottica ragionevole. Cioè io capisco l'americano che ha quel tipo di sensibilità. Scimmiottato in Italia, quando in Italia abbiamo tutt'altre diciamo così, emergenze, allora mi sa di qualcosa di posticcio. No, no, non mi piace. Vabbè, no, no, non ti piace, ti sembra, sì, ti preoccupa perché dici... per altro, ecco, diciamo sì, vorresti attenzione per i penultimi. Va bene, dai, Marione, sono, il grido sono dei penultimi. Sono le classi medie che poi sono più in difficoltà in questo periodo, già cominciavano a esserlo prima, no? Ma è chiaro, sì, sono quelli senza... ancora di più. Effettivamente, Leonardo, sì, senza protezione. E le medio-basse vanno in una difficoltà impensata. Perché, lo ripeto, un barista, una coppia di fratelli che di solito mi fa il cappuccino al bar, è abituato ad avere quel fatturato annuo di 70-80 mila euro che garantisce a entrambi una sopravvivenza dignitosa. In questo momento il loro fatturato scende dell'80% e non si vede la luce in fondo a questo tunnel. Poiché non sono dei dipendenti, non hanno una cassa integrazione, non hanno nessuna forma di sostegno, quella piccola impresa familiare, una ma sono milioni le storie così, rischia di costituire condizione di drammatico disagio da qui a poco, anche perché quello è il ceto produttivo del paese che fa il PIL, quello è il ceto che fa il PIL, allora se saltano quelli... No, ma è chiaro che è così, e gli strascichi si vedranno in autunno, come si suol dire, spesso questa espressione brutta, autunno caldo, ma quest'anno sarà veramente dura. Grazie Marione, il grido dei penultimi è il suo libro, abbiamo anche scherzato, ma visto che dice che la Juve vince, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo, se abbiamo sentito il traffico, mi è uscita anche l'ANSA, bollino rosso e croci, autostrada, a Masone sono salite a 14 km di coda tra Masone e il bivio A26 a 10. Guarda ragazzi, ma 14 km di coda, ma io veramente... vabbè. Ma io rilancio il mio format di ieri sulle strade della Liguria. Un periodo di carenza di format, di idee innovative, io credo che sulle strade della Liguria potrebbe avere un grande seguito, almeno di quelli che stanno in coda, se lo guardano lì sul web così si sentono protagonisti. Cioè, sto facendo la coda, però ci sono, secondo me, e questa cosa darebbe un senso anche alla coda. Io saluto invece con grande afflato e partecipazione tutti coloro che magari ci stanno ascoltando in coda di questi 14 chilometri, se vi sentite autorizzati di mandare a quel paese Leonardo Manera che vuole mandare il format sulle strade della Liguria, grandissimo, sulle strade di San Francisco, potete mandarlo a quel paese. Capisco volendo che un possa santo, farvi volendo molta mettere rabbia, un santo, come sulle strade di San Francisco, si potrebbe mettere sulle strade di San Bartolomeo a mare. Ecco, sì, per esempio. Esatto. Che allora, in Liguria. Vogliamo salutare due ospiti per parlare del tema orsi. Intanto saluto un sindaco, Villalago, Aquila, Fernando Gatta. Buongiorno, sindaco. Sì, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno. Così come saluto il veterinario, siamo in provincia autonoma di Trento, esperto di orsi, del progetto europeo di ripopolamento Life Ursus, Alessandro De Guelmi. Buongiorno, dottor De Guelmi. Buongiorno a tutti voi. Tanto ci tolgo una curiosità, ma perché anche l'ultima orsa l'hanno chiamata JJ4, M49? Capisco che sia bello, le sigle magari è più facile, ma dargli dei nomi a questi poveri orsi, ma perché penso... non... sinceramente penso che sia giusto dargli delle sigle, questo perché è la figlia di Jose e di Yurka, perciò JJ. JJ, quindi è figlio, la madre e il padre. Sì, contrariamente a quanto dice lei, io credo che dare un nome a un animale vuol dire umanizzarli, perciò vuol dire cercare di trasformarli, avvicinarli a noi, quando invece l'animale deve essere un animale selvatico e mantenere le sue logiche comportamentali di selvaticità. Io ho letto un'intervista sua molto interessante su Repubblica, dire: ma guardate, per esempio, se in Italia venisse introdotta la possibilità di portarsi lo spray al peperoncino, gli escursionisti, cosa che è vietata in Italia, risolveremmo moltissimi problemi, perché tanto, sentiamo che forse lei è, che bello, nei boschi con un elicottero, perché quello spray servirebbe moltissimo, no? Sarebbe efficace. Ma certamente questa è l'ultima chance che una persona potrebbe avere per non avere dei danni dall'eventuale attacco di un orso. Prima c'è da mettere in atto tutte le attività di prevenzione, educazione, però chiaramente se le due persone, le ultime attaccate, avessero avuto lo spray anti-orso, quest'ora noi non saremmo qua a parlare di orsi. Perciò direi che è sparito che l'orso non attacca. L'orso non attacca, non ha l'istinto, non gliene frega di ammazzarci, anzi ci vuole evitare. Questo l'orso è un animale molto elusivo, l'orso marsicano ne sa qualcosa, il sindaco è ancora più elusivo del nostro, e quando può, quando una via di fuga, lui se ne va sempre. La cosa importante è che non sopporta essere colto di sorpresa, perciò chi non vuole vedere l'orso basta che faccia un po' di rumore nel bosco, due parole, un colpo di tosse e movimento, e l'orso se ne va via tranquillamente. Cioè il rumore è quella la chiave, anche come per esempio si dice anche con le vipere, no? Che le vipere se ti sentono scappano prima, quindi bisogna fare rumore in modo che l'orso sappia che stiamo arrivando e se ne va. Ma sì, direi più che rumore far sentire la nostra presenza, questo non vuol dire basta parlare parola ogni tanto, basta un colpo di tosse e l'orso se ne va via. L'orso marsicano, Fernando Gatta, sindaco di Villalago, l'abbiamo chiamata anche perché a Villalago c'è la multa a chi infastidisce gli orsi, che è stupendo, è una inversione, come dire, di situazioni. Non siamo noi padroni dei boschi. È davvero così, sindaco, l'orso marsicano, che è molto difficile da vedere? Ma sì, diciamo che in passato era abbastanza difficile, adesso con queste ultime generazioni di orsi forse sono diventati un po' più confidenti, anche se poi alla fine si mantengono a dovuta distanza. La multa è stata, diciamo così, solo la necessità di regolamentare un attimo il traffico. Noi, diciamo, come paese sostanzialmente stiamo dentro il bosco, quindi alcune strade lambiscono il bosco, e quindi una l'abbiamo chiusa del tutto, anche perché poi non c'era tutta questa necessità di percorrerla. Altre strade le abbiamo regolamentate d'accordo con il parco per evitare appunto che anche durante le ore notturne magari degli automobilisti un po' più sconsiderati potessero arrecare qualche danno a questa famiglia, diciamo, di orsi. Ma che multa è? Cioè, nel senso, sono le multe del codice della strada sostanzialmente, quindi multe per divieto di accesso, queste sono le multe che abbiamo previsto nell'ordinanza. E dare anche un'arma in più alla forestale e alle guardie parco, ma anche ai carabinieri, di gestire un attimo questo fenomeno. Fenomeno che comunque avere quattro cuccioli per un'orsa e per il parco e per le nostre comunità è una cosa molto importante, è un evento rarissimo. Quindi cercare di mantenere la massima tranquillità, anche se si avvicinano al paese, penso che è un obbligo nostro, ma è un obbligo di tutti. Ma chi abita in paese in qualche modo è abituato a convivere con la presenza degli orsi? Sono più i turisti ovviamente che si spaventano, immagino. Ma sì, diciamo che a Villalago negli anni passati l'orso è sempre entrato in paese, diciamo anche durante nei periodi di meno affluenza turistica. In questo caso comunque c'è la stagione estiva, c'è un po' il flusso verso la montagna che è aumentato, un po' la curiosità, e quindi era necessario prendere qualche provvedimento. Sì, ricordiamo che siamo proprio nel cuore dell'Italia, vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, di Lazio e Molise, in provincia di L'Aquila, vicino al lago di Scanno, che mi risulta essere anche bellissimo, insomma, quindi nel cuore proprio dell'Italia. Io tornerei per un attimo dal dottor De Guelmi. C'è il grande dibattito, dottor De Guelmi. Io non amo mai le soluzioni semplici, però la gente dice abbattere, non abbattere, no? E lei su questo è stato chiaro, ha una posizione molto chiara. Lei JJ4, per esempio, l'ha vista proprio nascere, crescere. Che ne pensa di questo dibattito? Semplificare in situazioni così complesse è sempre molto difficile. Alla fine chi ha la competenza e l'autorità di decidere poi deve decidere. Dal mio punto di vista tecnico, io sono sempre stato convinto che gli orsi sono animali pericolosi. Gli animali, quando è definito pericoloso, l'animale deve essere tolto dall'ambiente e possibilmente abbattuto. In questo caso, in considerazione dei 14 anni precedenti di JJ4, nella quale è stata fin da piccolo un animale estremamente elusivo, un animale che non si nascondeva, non si è mai fatto vedere, non ha fatto prelazioni, veramente per un certo periodo di tempo pensavamo fosse quasi scomparso. Io dal punto di vista tecnico gli lascerei ancora qualche chance di sopravvivenza, ecco, gli darei delle attenuanti generiche in questo momento, le terrei sotto osservazione, radiocollararla, controllarla, vedere come si comporta e poi decidere. Questo non vuol dire che non si possa andare all'abbattimento, perché sappiamo che ma questo è interessante, perché lei è un veterinario, perché dice quando un animale poi è pericoloso, non è nel suo habitat, comunque è stato certo reinserito in questo progetto nei boschi, ma poi in Trentino l'orso c'è sempre stato, abbiamo avuto questo fenomeno di reintroduzione, di ripopolamento, chiamiamo con gli orsi sloveni, che ha avuto un ottimo risultato, in quanto il nostro territorio si presta moltissimo alla presenza degli orsi, e questo per noi trentini penso sia un grande vanto, perché abbiamo lavorato tanto come trentini, sono stati delle persone, hanno speso la vita a favore dell'orso, perciò adesso abbiamo questa popolazione di circa 100 esemplari sul nostro territorio, e per noi è un grande vanto. Chiaramente il Trentino è la zona al mondo con la più alta densità abitativa, nella quale vive una popolazione stabile di circa 100 orsi, e questo crea qualche problema. Bisogna essere estremamente corretti e seri nella gestione di qualche animale pericoloso. La cosa brutta da dire è che la pericolosità di certi animali molto spesso è data da comportamenti umani sbagliati, perciò veramente io ammiro il sindaco che con una sola ordinanza ha tutelato sia la salute dell'orso che la sicurezza dei cittadini, perché dei cittadini. Si vuole avvicinarsi troppo a questi animali. Complimenti. Anche perché poi ci ha spiegato insomma che basta fare un po' di rumore, neanche esagerato, e l'orso non ha nessun interesse a avvicinarsi agli esseri umani, anzi ha l'interesse solo di scappare. E quindi arrivino anche dal Trentino i complimenti in Abruzzo, ecco, al sindaco Fernando Gatta. Noi vi ringraziamo entrambi, Leo. Che no, dicevo che vuole... per me va bene, ma anche diceva che basta qualche parola. Ecco, io per esempio che parlo da solo, anche basta che vada in giro da solo, basta in che montagna, ripeti un po' l'orso... il tuo spettacolo e l'orso se ne va, anche perché l'orso se ne va. A meno che non sia interessato allo spettacolo, ma è difficile. magari si alza in piedi, si siede su un tronco, accavalla le zampone e dice, oh, ma guarda come mi fa ridere. Scherzi a parte, sai che quando io avevo il cane tanti anni fa, si cominciava a fare spettacoli, a volte ripetevo le cose al cane e lui stava lì in silenzio, pensavo, seduto ad ascoltare. Pensavo volessi dire a volte lui ripeteva. Vabbè. Ringraziamo Alessandro De Guelmi e Fernando Gatta e andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Sono Roberto, alpino cacciatore. Non uccidete l'orso, ci sono altri metodi. E beh, mi secca essere d'accordo con Aldinotti, mi secca parecchio. Ma stavolta ha parlato come un libro stampato. Bravo Marione. Il Plunk che volgarità con le gocce di cioccolato, orribile. Cos'è che era che veramente gradevole? Allora, questo è chiamato il pancake col cioccolato, il pancake, così appodatelo. Ecco, hanno mangiato le cose più eleganti. Più eleganti, perché, mamma mia, che cattivo gusto, cattivo gusto. Ma sono stato di cattivo gusto, Manera, effettivamente. Ma veramente oggi, una persona sgradevole. Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, ricordiamo, il nostro chef emozionale. Effettivamente è stato un po' sgradevole per lei, Manera. Per me ha fatto benissimo. Guardi, pancake, già solo ottimo, parlare di ottimo cibo, di cibo è volgare. Ecco, parliamo casomai di ma per carità, le polpette fritte, magari con dei pezzi di mortadella dentro, di Bologna. Mi dia un netto di Bologna, ma io questi li fucilerei immediatamente. Metterei un plotone d'esecuzione fuori dalle salumerie. Io farei come mettere un plotone d'esecuzione fuori dalle salumerie. Appena vedo uno che entra e chiede un netto di Bologna, pam! Gli oppure il taleggio, c'è dal tempo, che bello il taleggio, mi dia un netto di taleggio, entrano tutti sorridenti, no? Questi che vogliono il taleggio perché pregustano di riempirsi la pancia col taleggio. Ecco, veloce, ma un macete appena escono dalla gastronomia, gli si trancia la testa con il macete, così se lo mangiano. Ma perché il loro taleggio, nutriamo la mente, non il corpo. Va bene. Grazie, la ringraziamo. Va bene, Giulia da Trieste, buongiorno. Giulia, eccoci. Sì, buongiorno. Chiamavo per quella cosa di Indro Montanelli. Sì. Allora, secondo me non si può giudicare cose passate di altre culture con la mentalità di oggi. Primo. Secondo, sì, io non credo proprio che Indro Montanelli abbia avuto un rapporto lercio con questa ragazza. Tanto è vero che lei l'ha comprata. Un momento. L'ha detto lui stesso, l'ha comprata, sì, dal padre. L'ha comprata, anche Maometto si è sposato con una di 11 anni e nessuno apre bocca. Però voglio dire, che io sappia, il primo figlio di questa ragazza, lei lo ha chiamato Indro. Sì, questa è una versione che ha raccontato Indro Montanelli, però, non credo esistano interviste alla ex moglie bambina di Montanelli, cioè questa è una cosa che ha detto, che ha raccontato Indro Montanelli, il primo figlio poi l'ha chiamato Indro. Posso dire che ci sono cose dal mio punto di vista che non fanno nemmeno parte della legge o delle consuetudini, ma della coscienza personale. Se un uomo, quanti anni aveva Montanelli allora, 25, non lo so, 35. Non lo so, ecco, si trova davanti all'ipotesi di sposare, comprare una bambina di 12 anni, quella è una cosa che fa parte della coscienza personale, non c'entra niente con le consuetudini del tempo. Sì, uno dice, leggi, io di 35 anni me la sento dal mio punto di vista etico e morale di comprare una bambina di 12 anni, anche se in quel luogo lo si fa. Io penso di no, però poi ognuno la pensa in modo proprio, non è che bisogna giustificare o non giustificare, è proprio una coscienza, un'etica personale, io la vedo così. Bravo Leo, ci voleva l'applauso. Sì, effettivamente, ci voleva un applauso, perché è un intervento perfetto, un editoriale fatto e finito, non c'è nulla da aggiungere. Va bene, grazie Giulia da Trieste, andiamo a Padova, da Paolo, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. E saluto i telespettatori. È un po' di tempo, sì, io viaggio in auto. Siamo in radio, sì, però vabbè, sì, no, mi perdoni, è per fare il pignolo. Mi perdoni, siete sempre puntualizzati a tutto. Vi fa abbastanza onore. viaggiando spesso in auto, seguo Radio 24 e vi ascolto dalla mattina. Siccome vedo che ritorna spesso questa storia di Indro Montanelli, no? E viene sempre ripresa. Io, come ho 55 anni, io per lavoro ho girato il mondo e ho fatto tanta Africa. Volevo portare due esempi, che poi l'Italia, gli italiani, è forse il paese uno dei più ipocriti che ci sia. Io sono stato per un viaggio di lavoro in Guinea-Bissau e sono stato alloggiato all'hotel allo Sheraton, senza fare il sergio, in questo hotel vive anche il console italiano, che poi ho incontrato anche, ma è un'altra cosa. Ho visto, però notavo, già dal primo giorno, questa reticenza del personale locale ovviamente di questo hotel nei miei confronti, no? Cioè, si avvicinavano, sì, mi chiedevano anche i camerieri, quant'altro, però sempre con un po' di distacco, cosa che normalmente non ho mai notato in tante altre parti del mondo. E vedevo proprio anche nella reception un po' una freddezza, ma passa un giorno, passa due. Qual è il motivo? Difatti io ho chiesto, poi entro un po' in confidenza, mi spiegate un po' il motivo di questa cosa. E un signore, la reception, mi fa, tu sei italiano? Sì, beh, certo che lo sono. Questa esperienza, parlo, sarà 15 anni fa, la mia personale, no? Questo hotel è stato costruito da muratori italiani del nord Italia e quando hanno fatto questo lavoro hanno fatto le cose più brutte, si sono comportati male, ecco, Paolo, per fare un pochino in sintesi, con la popolazione, cioè gli italiani sono considerati, almeno in Guinea Bissau, come coloro che si comportano male. Un momento, in quel caso lì questo responsabile dell'hotel mi ha detto che questi italiani che hanno lavorato lì hanno saccheggiato i villaggi, e non serve che entri nei particolari cosa intendo. Per cui c'è questo fastidio in quella zona lì, parlo di Bissau, nei confronti degli italiani. Gli italiani perché hanno fatto, e penso a questo punto che forse Montanelli abbia fatto forse la cosa migliore. Migliore, non ho capito, cioè ha fatto tutta questa premessa anche lunghissima, devo dire, per i tempi radiofonici, mi perdoni Paolo, sulla sua storia che mi sembrava rotonda così, non ho capito perché il salto a Montanelli ha fatto la cosa migliore, nel senso che lei stesso diceva che mi pare che gli italiani, da esperienza che le ha raccontato, siano comportati male lì. Comunque è il momento del traffico. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria, info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, alle 10:49 minuti è venuta a trovarci e sono felice di questo, anche se purtroppo porta degli argomenti che di questi tempi sono difficili da digerire, il ragionier Crosta dall'Agenzia delle Entrate. Ben ritrovato, ragioniere, come sta? Tempo di 7:30. Buongiorno a tutti voi. Beh, siamo a luglio e tornano i grandi classici dell'estate, Cole in autostrada, la replica di Sapore di Mare, tante belle scadenze fiscali che ci accompagneranno nelle nostre giornate oziose, caro Milan. È il momento dell'anno che preferisco. Inforco un paio di occhiali da sole, mi avvolgo in un salviettone come Tutankhamen e mi metto ad osservare gli ignari bagnanti per cogliere degli indizi sulle loro disponibilità economiche e sui loro redditi occulti. Ad esempio, proprio stamattina ho notato una signora che prenotava un ombrellone con un lettino, indicativo di un reddito presunto di 500.000 euro. Ma siamo pazzi. Ma ora, cari contribuenti, vediamo meglio qualche esempio concreto di come funzionerà il nuovo redditometro che riguarderà tutti voi. Per esempio, possedete uno zampirone, molto utile contro le zanzare, ma lo zampirone va usato all'aperto, quindi significa che la vostra casa ha un grande cortile coperto da un pergolato sprofondato sulle sedie di vimini. Vimini. Vimini. E poi un giardino botanico con 42 microclimi diversi in cui crescono 5.000 piante rarissime, decine di ettari di terreno pleno con un enorme piscina olimpionica dove si allena anche la nazionale italiana di canottaggio, anche perché si sa, le zanzare sono attirate dall'acqua. Quindi, se possedete uno zampirone, è ovvio che avete anche una piscina. E con tutto questo spazio non state mai soli. Invitate amici, amici di Facebook, amici di amici, amici degli amici degli amici. Tutti a ingozzarsi di salamelle intorno al barbecue come se non ci fosse un domani. E invece il domani c'è e vi aspetta con una bella cartella esattoriale. Perciò, se possedete uno zampirone, il vostro reddito schizza dritto a 2 milioni di euro. E su quelli tasse, per uno zampirone. Tasse. E il Vimini. Oh, il Vimini. Bene. Avete un profilo Instagram? Sì, ah, beh, certo, profilo Instagram. Avete un profilo Instagram? Ah, ingenui. Allora, ogni volta che un contribuente apre un profilo Instagram, all'Agenzia delle Entrate stappiamo una bella bottiglia di prosecco, perché dal momento in cui voi iniziate a mettere online le vostre foto, noi sappiamo tutto di quello che fate e possiamo usarlo contro di voi. Per esempio, postate una bella foto della vostra colazione. Oh, ma che bravi! Buongiorno a tutti i miei follower stolti, perché l'abbiamo vista anche noi quella bella tovaglietta in seta birmana di fiore di loto. Fior di loto una tovaglietta che si abbina perfettamente alla vostra tazza in porcellana della dinastia King che avete comprato a un'asta prestigiosa. Ma non vorrei mica andare all'asta solo per una tazza in porcellana, che tra l'altro non puoi neanche mettere in lavastoviglie. E allora, già che eravate all'asta, vi siete aggiudicati anche la bandana col sudore originale di Mick Jagger, il primo tappetino da mouse di Bill Gates e un batuffolo di cotone impregnato di mascara di Kim Kardashian. Mascara fior di loto, Vimini. Quindi Kardashian. Se avete una Kardashian, non mi interessa, mi interessa il mascara. Mascara Vimini fior di loto. Quindi se avete un account Instagram, il vostro reddito presunto si aggira a 25 milioni di euro. Ma cosa dice? Ma dai, su quelle tasse, prelievi, cartelle esattoriali, ispezioni, campanelli che suonano le 6 di mattina mentre siete a riposare nel vostro letto. Chi è? È la guardia di finanza. E arrivo io, il ragionier Crosta, che fruga nei vostri cassetti, nei vostri cassettoni, nei vostri trumoncini. I trumoncini. Lei non sa cos'è un trumoncino? Ce l'ha nascosto nel suo terrazzo dove saltano i canguri, che domina tutto Viale Monza, Sesto San Giovanni, domina tutta la valle Loreto. Continuate così a farvi dei selfie, a farvi i vostri profili Instagram. L'Agenzia delle Entrate e il ragionier Crosta vi ringraziano infinitamente e vi ridurremo giustamente prossimamente sul lastrico. Il lastrico. Ecco, bravo. A lei piace lastrico. Voglio un lastrico. Per non parlare del lastricato solare, quello che ha lei nel suo appartamento di Viale Monza, dove saltano i canguri e vivono anche dei pinguini in un microclima creato ad hoc, che in pinguini, canguri, leopardi, orsi. Lei ha degli orsi nel suo attico che tiene in cassaforte, cassaforte enorme, giganti, cassaforte con sopra scritto Trentino, dove ha creato un microclima e su quello puoi pagare milioni e milioni di tasse. Ragione Crosta, la dobbiamo salutare. Noi, a noi fa molto piacere averla, certo. I fratini, stia attento, perché i fratini, stia attento. I fratini sono dei tavolini molto. Mi spiace per Lorenzo da Vicenza, non c'è spazio, se ha pazienza Lorenzo domani lo recuperiamo su questo termine. Sì, lo recuperiamo noi Lorenzo da Vicenza con una bella ispezione dei suoi dati a Ragione Crosta. Lorenzo da Vicenza, dobbiamo salutare. Ispezione. Alpino, tira giù questo che ci porta solo menagramo e tasse. Menagramo e tasse. Grazie, la Gioia Costa. Ci troviamo domani alle 9. Nessuno, 100.000 anni.